l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e anche per questa settimana benvenuti all'Eco del Silenzio. Dopo l'eccezionalità della trasmissione della settimana passata, torniamo alle nostre abitudini e quindi ai consueti articoli. Nel primo parliamo di radio, o meglio ancora di radio finanziate ai partiti, e di quanti dei nostri soldi di contribuenti vengono bellamente gettati dalla finestra. Da www.corriere.it per l'inserto Report Time, la storia vera delle finte radio di partito, di Paolo Soglia, del 24 maggio 2012. Ucciderne 1000 per mantenerne 6. Il governo ha tagliato i rimborsi previsti per le radio locali, ma continua a regalare milioni alle cosiddette radio di partito, contributi diretti che arrivano al 70% delle spese messe a bilancio. Molto si è parlato delle ruberie perpetrate dai finti giornali di partito. Per accedere ai contributi bastavano uno o due parlamentari compiacenti che dichiarassero, solo sulla carta, di rappresentare un movimento fittizio. Poi, come per incanto, compariva un giornale che ne diventava organo, intascando i rimborsi. La legge editoria, però, prevede che i contributi possano essere corrisposti alternativamente per un quotidiano, un periodico o un'impresa radiofonica. Quando per i giornali venne abrogata la possibilità di ricevere i contributi col giochino del deputato disponibile, ci si dimenticò di fare lo stesso per il settore radio-tv. Nel 2007, il claudicante governo Prodi pensò di intervenire stabilendo che anche le radio dovevano, quantomeno, essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento. Subito dopo, però, ecco arrivare il salvagente per i furbetti. Nella stessa legge si stabilisce infatti che le emittenti di partito, già inserite in graduatoria, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Insomma, per chi ha già intascato continua la cuccagna e sparisce addirittura la scocciatura di cercarsi un onorevole che di anno in anno firmi la dichiarazione da allegare alla domanda. In via transitoria, si capisce. D'altronde, in Italia nulla è più stabile del transitorio. Dal 2004 al 2009, i contribuenti italiani hanno versato nelle casse di 6 radio di partito circa 60 milioni di euro. In cima al podio, tra i fortunati vincitori della lotteria, sempre gli stessi, c'è Radio Radicale, voce della lista di Marco Pannella. Oltre alle decine di milioni erogati per un servizio di diretta parlamentare che fa pure la RAI, riceverà anche quest'anno più di 4 milioni di euro. Le radio di partito verosimili, diciamo così, sarebbero finite qui. Esiste anche Radio Padania, ma i leghisti, gente accorta, preferiscono incassare i contributi per il giornale La Padania, che costa ben di più. A seguire, troviamo Ecoradio, un'invenzione dei Verdi di Pecorario Scanio, che entra nel club grazie alle firme dei deputati ambientalisti Centro e Lion a nome del Movimento Politico Italia Libertà. I Verdi si sfaldano, non così la scatola da soldi che passa tal Marco La Monica, proprietario di Ecomedia S.p.A., voce del movimento Comunicambiente. E chi lo conosce, che sta per incassare 3.274.000 euro. Tra i deputati, che si sono alternati negli anni a mettere la firma per garantire i finanziamenti a Ecoradio, troviamo Massimo Fundarò, dei Verdi, Cinzia Dato, dell'Ulivo, Mauro Libè, dell'UDC e Sandro Gozzi, del PD. In 6 anni Ecomedia S.p.A. ha portato a casa ben 18.445.000 euro. Le spese di Ecoradio sono aumentate negli anni a dismisura, non così gli occupati che anzi sono calati drasticamente. Dulcis in fundo, l'anno scorso il giudice del lavoro ha condannato Ecomedia per comportamento antisindacale. Insomma, soldi ben spesi. Ottima performance anche per Radio Città Futura di Roma. L'ex emittente della sinistra extra parlamentare, dopo tante vicissitudini, è finita da alcuni anni nell'orbita di una nota agenzia di stampa radiofonica, storicamente vicina al PD. Magicamente, è diventata anche organo del movimento Roma Idee. I rimborsi sono lievitati da 366.000 euro del 2004 ai 2.182.000 euro del 2009, tutto reso possibile dalle firme pesanti date a suo tempo da due grossi nomi del PD, Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti. La rappresentanza del movimento Roma Idee ha fruttato RCF in 6 anni oltre 10 milioni di euro. Quel movimento ovviamente esiste solo sulla carta, ma come idea per intascare soldi dallo Stato non è niente male. A metà classifica, con 496.000 euro, troviamo Radio Veneto 1 di Treviso, di proprietà di TRADS SAS, di tal Roberto Dizzo, rappresentante del movimento Liga Fronte Veneto Nord-Est Europa. A garantire in questo caso sono prima il parlamentare leghista Antonio Serena e poi Simonetta Rubinato del PD. Quasi lo stesso importo prende Radio Galileo di Terni, gestita dall'omonima cooperativa che si è dichiarata organo di Città Aperta per gentile concessione del senatore PD Leopoldo Di Girolamo. I contribuenti per finanziare questi famosissimi movimenti politici hanno già staccato un assegno rispettivamente di 3.227.000 euro e 2.412.000 euro. L'ultima ruota del carro è Radio Onda Verde di Cremona, diventata organo del movimento a viva voce, grazie alle firme dei deputati ulivisti Lucia Codurelli e Daniele Marantelli. Per il 2009 prenderà 170.000 euro. Poveretti, una vera e propria elemosina che comunque negli anni ha fruttato un gruzzoletto di quasi 1 milione di euro. Piccolo neo. A dicembre 2010, il GIP Guido Salvini, nell'ambito di un'inchiesta su una mega truffa perpetrata da alcuni editori emiliani e lombardi sui contributi editoria, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare anche per l'amministratore di Radio Onda Verde, Raffaella Storti, accusa successivamente archiviata e i soldi continuano ad arrivare. Ora il governo Monti ha abbassato la percentuale del rimborso alle finte radio di partito dal 70 al 40%, che può però arrivare al 50% se hanno poca pubblicità. Bene, anzi malissimo, vorrà dire, che invece di regalare 10 milioni di euro all'anno, ne regaleranno solo 7. Altro che spending review. I tecnici adottano la stessa linea di Tremonti, tagli lineari che limano i contributi a questi sedicenti organi, ma non mettono minimamente in discussione la legittimità a riceverli. Sarebbe invece il momento di presentare il conto, destinando risorse solo agli eventi di ritto e non a chi prospera sfruttando amicizie politiche, costi quel che costi, anche al prezzo di ambiguità, compromessi o veri e propri sotterfugi. L'eco del silenzio. Silenzio. Questa seconda notizia sembra uno scherzo, di pessimo gusto, ma purtroppo non lo è. Se i disabili pensavano di aver, tra virgolette, toccato il fondo con Brunetta e Tremonti, si sono dovuti ricredere grazie alla Fornero. Da www.fishonlus.it, il sito della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Fornero, privatizzare la disabilità, del 25 maggio 2012. Non si può pensare che lo Stato sia in grado di fornire tutto in termini di trasferimenti e servizi. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro Elsa Fornero durante il convegno Autonomia delle persone con disabilità, un nuovo contributo per assicurarla. Reatec Milano 25 maggio. Il ministro ha poi aggiunto: sia il privato che lavora per il profitto, sia il volontario no profit sono necessari per superare i vincoli di risorse. Il privato, in più del pubblico, possiede anche la creatività per innovare e per creare prodotti che aiutino i disabili. La sinergia tra pubblico e privato va quindi rafforzata. I prodotti di cui si parla sarebbero quelli assicurativi. Infatti la Fornero prosegue: per evitare accuse di raggiro o frodi, il ruolo pubblico dovrebbe dare credibilità inserendosi nella relazione tra la persona e il mondo assicurativo. C'è bisogno di innovazione finanziaria e creatività. Parole che lasciano sconcertate le organizzazioni delle persone con disabilità per la loro crudezza e per l'evocazione di una cultura che non si pensava potesse penetrare nel nostro paese, risalendo fino ai vertici di un governo che si appella ad ogni peso spinto all'equità. Con la prima affermazione la Fornero gela qualsiasi ipotesi e speranza di innovazione sociale, di garanzia dei diritti civili, di efficacia ed efficienza dei servizi sociali, di miglioramento delle prestazioni per i disabili gravissimi e per i non autosufficienti. Tradisce il retropensiero che gli stanziamenti per l'autonomia personale delle persone con disabilità siano una spesa morta, un sovraccarico insostenibile, un capriccio di pochi e non già invece un investimento. Ricorda, tragicamente, alcune brutali dichiarazioni del ministro Tremonti. Come può un paese con 2,5 milioni di disabili essere davvero competitivo? Lo Stato rinuncia ad attuare quanto previsto nell'articolo 38 della Carta Costituzionale, annota Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, e quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, getta la spugna invocando un intervento caritatevole o interessato dei privati, un lesto e mesto ritorno alle opere pie o a qualcosa di peggio. Ma la seconda parte delle affermazioni del ministro ha risvolti non meno inquietanti. Lo Stato, pur di liberarsi dalla spesa per la disabilità e la non autosufficienza, diventa procacciatore d'affari per le assicurazioni e le eventuali risposte assistenziali sarebbero erogate in virtù di una polizza pagata in vita dai cittadini. Una privatizzazione assicurativa del welfare che inizia dalle persone con disabilità per spingersi fin dove la creatività può consentire. A chi non giovi tutto ciò è presto detto, a chi non può permettersi di pagare una polizza assicurativa e a chi nasce con una grave menomazione o la contrae in tenera età. A chi giova invece questa prospettiva oltre che allo Stato? Sicuramente il giro d'affari per le compagnie assicuratrici è notevolissimo e in questo periodo di crisi un vero toccasana. Nuovi introiti e nuove prospettive anche sul fronte immobiliare. Tradiscono l'attesa le stesse parole della Fornero. Qualche volta le persone anziane si trovano intrappolate in una casa che costa troppo e hanno difficoltà ad ottenere aiuti, un patrimonio immobiliare che fa gola a molti. Sono dinamiche logiche che ovviamente non ci appartengono, conclude Barbieri, ma che rischiano di stritolare ogni prospettiva di reale inclusione sociale o di condizionarla al censo, al patrimonio, all'età, più che al diritto costituzionale e prima ancora umano. Una nota brevissima dalla redazione dei www.vita.it. Petizione. 5 per 1000 2010 sono spariti 80 milioni? Del 25 maggio 2012. Lettera aperta delle associazioni. Monti risponda. Onorevole professor Mario Monti, professore Vittorio Grilli, inizia così la lettera aperta che alcune fra le più note sigle del no profit italiano hanno indirizzato ai responsabili del Dicastero dell'Economia per avere lumi sulla sorte del 5 per 1000 2010. Nei giorni scorsi, infatti, alcune anticipazioni di stampa avrebbero previsto la prossima distribuzione pari a 383 milioni di euro a fronte di 463 milioni che invece i contribuenti hanno deciso di destinare per l'anno in questione. Di fatto, sarebbero evaporati circa 80 milioni di euro, senza che ad oggi nessun esponente del governo abbia sentito il bisogno di dare una spiegazione. Naturalmente l'ammanco avrebbe pesanti ripercussioni sulle attività delle associazioni destinatarie. L'eco del silenzio. Ed eccoci quasi arrivati alle conclusioni. Anche quest'anno Amnesty ha pubblicato il consueto rapporto annuale e anche quest'anno nulla è cambiato per l'Italia, che è sempre descritta come un luogo sostanzialmente incivile in cui la normalità è in cui è assolutamente normale violare i diritti civili. Da www.l'inchiesta.it, nello specifico dal blog Colpo di Tacco di Arcangelo Manciguerra. Rapporto Amnesty 2012, italiani, popolo di razzisti, maschilisti e torturatori, del 24 maggio 2012. Fa riflettere, ma non sorprende, il rapporto 2012 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in Italia. La fotografia precisa degli assalti ai campi Rom, dei respingimenti in mare, dei trattamenti inumani dei CPE, della vita da maschi alfa dominanti propinata dai mass media nazionali. Il rapporto non lascia infatti alcun dubbio. A maggio, il Comitato Consultivo della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali ha reso noto il suo terzo parere sull'Italia, rilevando un aumento dei comportamenti razzisti e xenofobi nei confronti di alcuni gruppi, quali Rom, musulmani, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Il Comitato ha anche espresso preoccupazione per l'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita delle comunità Rom. Addirittura Amnesty va nello specifico e critica l'operato di Pisapia. Sebbene le autorità di Milano, elette a maggio, non abbiano lodato pubblicamente gli sgomberi dei campi Rom con i mezzi di informazione, come avevano fatto i loro predecessori, gli sgomberi sono proseguiti in modo incompatibile con gli standard sui diritti umani. Ancora più drammatico è il profilo legato ai diritti dei migranti. Nel corso dell'anno più di 52.000 persone sono giunte in Italia via mare dall'Africa del Nord, in particolare sull'isola di Lampedusa, con un considerevole incremento rispetto agli anni precedenti. La risposta delle autorità è stata carente e ha determinato violazioni dei diritti umani di richiedenti asilo, migranti e rifugiati. Tra le azioni intraprese ci sono state espulsioni sommarie di massa, violazioni del divieto di non-refoulement e detenzioni illegali. È stata espressa la profonda preoccupazione per l'applicazione di accordi per il controllo dell'immigrazione, firmati con vari paesi nordafricani come Libia, Tunisia ed Egitto, aventi come conseguenza la negazione dell'accesso alla protezione internazionale per i richiedenti asilo e il rischio di espulsione sommaria. Le condizioni nei centri di accoglienza e detenzione non sono state conformi agli standard internazionali. Richiedenti asilo e rifugiati sono stati lasciati nell'indigenza. Ciò che preoccupa è il ricorso del governo alle leggi antiterrorismo, la mancata ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, ma soprattutto il vulnus legislativo in merito al reato di tortura che non è stato ancora inserito nel codice penale. Così come non sono stati istituiti meccanismi efficaci per prevenire i maltrattamenti della polizia, né sono state adottate misure concrete per garantire indagini appropriate e, laddove necessario, provvedimenti giudiziari contro gli agenti coinvolti in violazioni dei diritti umani. Dulcis in fundo, a luglio il comitato CEDAW ha reso pubbliche le proprie osservazioni conclusive, sollecitando l'Italia, tra le varie cose, a introdurre politiche per superare la rappresentazione delle donne come oggetti sessuali e per mettere in discussione gli stereotipi sul ruolo di uomini e donne nelle società e nella famiglia. Insomma, un quadro quantomeno preoccupante, e se ne consiglia quindi un'attenta lettura del rapporto. Lo potete trovare a rapportoannuale.amnesty.it/2012/Italia. Visto che la condizione delle donne in Italia è un pianto e visto che i femminicidi stanno aumentando, sono arrivata a sperare che qualunque cosa possa cambiare questa situazione. E visto il notevole e notorio interesse degli italiani per il calcio, spero che se inizia a parlare la nazionale di femminicidio e a scendere in campo contro lo stesso, magari qualcuno si accorge che esiste questo reato, anche se ancora giuridicamente non è stato riconosciuto. E siamo ancora molto lontani dal riconoscimento delle aggravanti di genere. Da bologna.repubblica.it, nazionale contro il femminicidio, Parma, le donne gratis allo stadio, del 26 maggio 2012. In occasione dell'amichevole di martedì prossimo con il Lussemburgo, ingresso gratuito per signore, ragazze e bambine. La squadra di Prandelli aderisce all'appello di Se non ora quando. Gli azzurri scendono in campo contro la violenza sulle donne. Martedì 29 maggio la nazionale di calcio dedicherà alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne la partita Italia-Lussemburgo in programma allo stadio Tardini di Parma. La violenza sulle donne è un problema degli uomini. Insieme possiamo vincere questa partita. È lo slogan scelto dalla FIGC per condividere proposte e programmi che varie organizzazioni e movimenti di opinione stanno portando avanti in tutta Italia. Sugli spalti, le donne potranno entrare gratis. Già da ora le tifose possono recarsi in uno dei punti vendita su Ticket One, sparsi sull'intero territorio nazionale e richiedere, dietro presentazione di regolare documento di riconoscimento, un biglietto omaggio per qualsiasi settore dello stadio Tardini fino ad esaurimento dei posti. La partita sposa la campagna Mai più complici, promossa da Se non ora quando con Loredana Lipperini e Lorella Zanardo. Per noi è un grande onore avere la nazionale al nostro fianco, dice Luisa Rizzelli di Se non ora quando, perché oltre ad essere amatissima e quindi un eccellente veicolo di comunicazione, ha saputo comprendere subito quello che per noi è determinante, avere gli uomini in prima linea in questa battaglia. Lanciato nelle settimane scorse, dopo l'ennesimo assassinio di una donna, l'appello Mai più complici chiede al governo e alla società civile di mobilitarsi e mettere in campo azioni concrete per fermare la violenza contro le donne in Italia. Sono 56 le donne morte dall'inizio di quest'anno per questo motivo, e ai media di cominciare a chiamare questi episodi con l'unico nome che spetta loro, femminicidio. Solo in questo modo, sostengono le promotrici, potremo evitare che le storie delle vittime si perdano, confuse nelle pagine della cronaca nera. L'appello ha avuto adesioni trasversali dal mondo della politica, da quello dello spettacolo, dai sindacati, dallo sport e dalla società civile. Anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio.